Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. La voce dell'innovazione, 16.33, Luca Tremolada, Luca Dello Jacopo, siamo qui. Nuovo orario, qualche novità, le impareremo un po' durante le puntate. Insomma, ci sono degli elementi nuovi che non sono l'autore, perché Luca Dello Jacopo l'ho già annunciato. Sentiamo subito le news. Il governo tedesco sconsiglia ai cittadini l'uso di Internet Explorer per navigare sul web. A dicembre, hacker cinesi hanno utilizzato alcune falle nel browser. Sono entrati nella posta elettronica di attivisti per i diritti umani, critici verso le autorità di Pechino. Gli account violati erano gestiti da Google, ma la breccia è stata aperta attraverso Internet Explorer. Secondo Microsoft, le minacce per gli utenti comuni sono minime. In una nota, la casa di Redmond ha specificato che chi ha installato Internet Explorer 8 non è oggetto di attacchi conosciuti. Intanto, non ha avuto conseguenze la scelta annunciata da Google di lasciare la Cina. Il motore di ricerca è online e i suoi dipendenti a Pechino oggi sono andati in ufficio. Dubbi sullo scioglimento dei ghiacciai nell'Himalaya previsto per il 2035. 2 anni fa, gli scienziati riuniti dall'ONU hanno dichiarato che le nevi sarebbero scomparse dalle vette più alte del mondo. Ma un articolo apparso sul settimanale inglese New Scientist ha rivelato che le previsioni non erano fondate su ricerche scientifiche. La polemica segue la scoperta di uno scambio di email tra gli scienziati dell'ONU. I ricercatori sostenevano di aver amplificato nei loro studi gli effetti sull'ambiente dovuti al cambiamento climatico. I dati sono stati scoperti da un gruppo di hacker e inviati ai mass media. Aumenteranno i prezzi di chiavette USB, DVD e altre memorie di massa, ma il dibattito su internet si surriscalda. L'incremento è stato deciso con un decreto del Ministero dei Beni Culturali sull'equo compenso per copia privata. È l'ammontare dei diritti ricevuti preventivamente da editori e autori per le opere fruite attraverso supporti digitali. Si moltiplicano le reazioni su internet. Nei commenti di blog e social network, l'equo compenso è definito una tassa. La SIAE è intervenuta con una nota per smentire le proteste dei blogger. Sì, insomma, ci sono discussioni. L'equo compenso non pare poi così tanto equo. La previsione, insomma, è che aumenteranno hard disk, aumenteranno anche i telefonini, aumenterà tutti quei prodotti che hanno una memoria solida, una memoria dove poter immagazzinare video, filmati e quant'altro. Qual è il problema? Il problema è che i blogger protestano e in rete le opinioni non sono favorevoli. Come tutte le volte che si aumenta il prezzo qualche cosa. Anche perché in questo caso cosa succede? Che in un certo senso viene demandato alle aziende che producono tecnologia, e quindi magari probabilmente, perché no, anche a noi consumatori, di pagare i diritti d'autore. Cosa buona e giusta, lo ricordiamo e lo ricorderemo. Però... E tra l'altro viene fatto anche in anticipo, cioè sono dei diritti che vengono pagati in effetti in anticipo. Sì, il tema di cui si sta dibattendo adesso in rete, che vogliamo anche capire la vostra opinione, tra l'altro se ci scrivete o se volete intervenire durante la trasmissione possiamo sempre fermarci un secondo e parlarne, come facciamo a... perché io devo dare dei soldi, dei finanziamenti così in generale? Cioè, metti che a me non piacciono determinati cantanti, perché non posso scegliermi io l'autore che voglio andare a finanziare? Dall'altro problema, appunto, c'è la questione degli autori che devono essere remunerati. E tra l'altro ti volevo segnalare che sto leggendo un bel libro che è di Cory Doctorow e che si chiama X. E in questo libro ipotizzano un'altra soluzione, cioè pensano invece che all'etichetta discografica, al provider discografico. Cioè l'idea è che i gruppi musicali possono fare un accordo con i provider ed essere retribuiti in base al successo delle loro canzoni. È ovviamente un racconto, però ecco, è un'idea che dà anche una prospettiva su quanto sia in fermento, ecco, il mercato musicale e i modelli di business in questo momento. Anche perché questa dell'equo compenso del decreto del ministro Bondi è sicuramente l'ennesimo gesto che rivela, insomma, la difficoltà difficoltà che si hanno adesso gli autori da un lato e le organizzazioni, insomma, che tutelano i loro diritti a in un certo modo finanziarsi, e dall'altro la tecnologia che corre velocissima e che consente di copiare contenuti che prima non era possibile copiare. E su internet si sta diffondendo comunque l'abitudine di ascoltare poi della musica in streaming, e molti siti adesso stanno, certo, superando anche il modello di iTunes, quello del download, e prevedono la possibilità di ascoltare la musica attraverso internet con lo streaming pagando una quota mensile, come per esempio Last.fm, che per 3 euro, certo, al mese ti dà la possibilità di ascoltare la musica che questo vuoi. Questo per dire anche come la tecnologia stia viaggiando talmente veloce che la pirateria dei file è già vecchia. Cioè adesso io mi collego a internet e in modalità radio mi posso personalizzare tranquillamente il mio palinsesto, per cui insomma le cose corrono velocissime. Ma adesso entriamo nel merito della puntata di oggi. Oggi parliamo di Wikipedia, oggi parliamo di Wikimarketing, lato scuro, lato illuminato. Adesso andremo a vedere, sentiamo subito la scheda. Wikipedia è la più grande enciclopedia online. Ogni mese 340 milioni di persone consultano le sue definizioni. Sono pagine web ricche di informazioni su un'ampia gamma di argomenti: scienza, storia, arte, tecnologia, economia. Ma Wikipedia è anche tra i primi risultati di Google. Un legame, quello tra l'enciclopedia e il motore di ricerca, ben noto agli esperti di marketing. Per esempio, 3 utenti su 4 cercano informazioni sanitarie attraverso internet. E il 75% dei navigatori online dice che le notizie trovate sul web hanno influito sulle proprie scelte. Su internet, quindi, Wikipedia è diventata una fonte di informazione medica. Ma l'enciclopedia online è una vetrina per molti prodotti: software, bevande, abbigliamento, design. Negli ultimi anni, alcune aziende hanno pagato blogger per promuoversi su Wikipedia e sui social network. Manhattan Research e altre società di marketing, però, hanno sconsigliato alle aziende di intervenire sulle voci dell'enciclopedia. Eppure sul web si moltiplicano i consigli per il Wikimarketing, il marketing su Wikipedia. Chi vigila allora sull'affidabilità dei contenuti? Ogni giorno un gruppo di volontari controlla i nuovi contributi a Wikipedia. Sono decine le espulsioni di utenti per l'immissione di contenuti promozionali, ma resta una questione aperta. Resta una questione apertissima, perché il tema su Wikipedia riguarda anche un po' tutto riguarda il tema centrale della qualità della rete e della democrazia della rete. Leggo 2 sms al volo. Pagheremo anche per i filmini delle nostre vacanze, quindi, ma non vi sembra una schifezza, Maurizio? Perché non aumentare il prezzo delle gomme delle auto per risarcire chi viene investito? Siamo al ridicolo. Questo è Piero. Questo, insomma, è un po' due sms di 2 ascoltatori. Che non riflette anche l'umore di alcuni commenti poi sul, sì, web. More or less è questo, insomma, quello che si dice in rete, ma ancora più stringente è quello che sta accadendo intorno a Wikipedia. Sì, c'è un fenomeno, infatti, che si sta ampliando, ed è quello dell'astroturfing, lo chiamano, l'idea che ci sono dei gruppi di persone che promuovono, ecco, dei movimenti di passaparola per farsi pubblicità, solo che non sono movimenti autentici come succede in molti casi in rete, ma sono movimenti che appunto hanno alla base degli interessi economici. Questo nome curioso, astroturfing, viene dal nome di un'erbetta che era utilizzata nei campi negli Stati Uniti e che è stata collegata ad alcuni movimenti di base. È un fenomeno che si sta ampliando, perché basta andare su internet per vedere quanti consigliano come fare marketing su Wikipedia, e non è detto che su Wikipedia appunto ci siano delle contromisure adatte per proteggersi. C'è un ragazzo, un hacker anzi, degli Stati Uniti, che si chiama Griffith, creato uno strumento per capire chi è che ha messo davvero mano sulle voci di Wikipedia. Questo strumento si chiama Wikiscanner ed è stato un suo progetto che è durato un anno e che è diventato famosissimo in rete, perché se voi andate a inserire il nome dell'azienda, il nome dell'istituzione o il nome dell'organizzazione all'interno del motore di ricerca, vedete che appaiono tutte le modifiche che ha fatto quell'organizzazione all'interno di Wikipedia. Sì, anche perché, diciamolo, se chiaramente io sono un'azienda, ho tutto l'interesse a far dire da Wikipedia che sono bravissima, che i miei prodotti sono fantastici e che sicuramente, se venite da me, fate un gran bell'affare. Ma non è detto, non è assolutamente detto che sia un gran bell'affare. Non è detto, appunto in questo modo è possibile vedere quali sono gli interventi. In un certo senso si scopre, si entra nelle pagine di Wikipedia e si vede chi l'ha fatta. Tra l'altro, il fatto che noi martelliamo tanto su Wikipedia è semplicemente legato a un fatto che non so quanti si rendono conto dell'importanza che ha questa enciclopedia online, non tanto per, insomma, io 40 anni quasi, tu poco, quanti ne hai? Io ho 29, ma ammazza. Comunque, insomma, c'è una generazione che sicuramente si sta formando nel termine di scrittura delle ricerche da scuola su Wikipedia. È una scorciatoia, sicuramente un famoso copia e incolla, però è indubitabile il fatto che Wikipedia diventa uno dei mezzi più utilizzati. Addirittura c'è chi pensa che Wikipedia sia la televisione, cioè sia rappresenti quello che è stata la televisione negli anni 50. Per cui, in un certo senso, da il contesto, come stai dicendo tu esattamente, da il contesto per chi naviga e per le persone che sono appunto cresciute su internet, che molti chiamano i nativi digitali, da il contesto di riferimento. Se non sanno qualcosa, chiedono a Wikipedia. Ma allora Wikipedia costruisce, diciamo, tutto lo scenario. Costruisce la verità? Ma non lo so. Nova Lab 24. 16:46, ci domandavamo democrazia e sapere e cos'altro? E scienza. E scienza. Esatto, noi abbiamo in collegamento Thomas Jefferson. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buon pomeriggio, abbiamo una scheda su di lei che mandiamo all'istante. Tom Jefferson è un medico epidemiologo e lavora per la Cochrane Collaboration, una rete internazionale di ricercatori per la valutazione dei trattamenti sanitari. Ha scritto Attenti alle bufale. Nel libro smaschera pratiche e idee false, sostenendo una medicina basata sulle evidenze scientifiche. È stato tra i primi a denunciare i rischi del marketing sulla salute con Wikipedia, ma non demonizza Internet. Il sito web del volume Attenti alle bufale è una miniera di informazioni utili per capire la comunicazione medica. Coraggioso e controcorrente, Jefferson più volte ha denunciato un disaccordo con la comunità scientifica, soprattutto per i rischi delle epidemie influenzali. Ma allora su Wikipedia c'è una verità scientifica? Wikipedia è un esperimento straordinario, un esperimento di democrazia. E come avete detto voi nella scheda, tante persone lo leggono, tante persone lo accedono per tutta una serie di motivi. E dovete tener conto che, come lo sapete voi, lo sa qualcun altro e l'ha saputo molto prima di tutti noi. E quindi per qualcun altro ci riferiamo al marketing o a tutti quelli che sono interessati alla promozione? Chiunque abbia qualcosa da vendere, di qualsiasi tipo. Per vendere non intendo solo vendere con i soldi, bensì anche vendere idee, vendere informazioni e via dicendo. Quindi bisogna stare molto molto molto attenti. C'è poi un problema supplementare, il fatto che l'idea che è alla base, comunque la popolarità di Wikipedia è in parte dovuta naturalmente a Google, al fatto che quando tu digiti, io ho provato appena ora a digitare il nome di un grandissimo scienziato italiano, Angelo Celli, della fine dell'Ottocento, e il primo risultato è quello di Wikipedia, la biografia di Angelo Celli di Wikipedia. Perché questo? Perché Google ha un algoritmo che è basato sul numero di citazioni. Bisogna stare però molto attenti, perché nella scienza il numero di citazioni non è che abbia un'importanza fondamentale, perché la scienza non è né consenso né democrazia. È un po' la negazione di quello che, insomma, è il punto di forza di Wikipedia, dove invece il tema è quello. Noi sicuramente non raccontiamo la verità, però, insomma, lasciamo libero quest'area di dibattito in modo tale che tutti possano contribuire, e la sommatoria dei contributi sicuramente garantisce la verità. Ma questo non va bene per la scienza, mi sembra di capire. Non va bene per la scienza. Se voi pensate, gli ascoltatori pensano a Copernico, a Galileo, a Newton, a Einstein, a Max Planck, a tutti i grandi e veri innovatori, i grandi e veri scienziati, nessuno era in sintonia, o pochi erano in sintonia con i contemporanei. E quindi non funziona in questo caso. Quindi che cos'è la soluzione? La nascita di una contro Wikipedia invece realizzata da una sorta di un insieme selezionato di esperti, di scienziati? No, la soluzione secondo me è l'uso dei 1600 centimetri cubici di materia cerebrale giornaliero che ci ha dato il nostro creatore. Quindi il senso critico? Sì, l'uso della testa e il senso critico, che poi è il messaggio di Attenti alle bufale. Non esistono delle ricette magiche, non esiste la verità e non esiste la falsità, esiste semplicemente il fatto che noi bisogna andare avanti nel nostro cammino, sto parlando naturalmente di scienza, e bisogna usare sempre la testa e bisogna chiederci, come faceva il mio maestro, se esistono delle altre spiegazioni per quello che noi osserviamo. Tutto qua, si va avanti in questa maniera. Ecco, c'è qualche wikibufala che secondo lei è particolarmente significativa? Ma wikibufale ce ne sono nel campo della scienza, ce ne sono tantissime. Quella che mi allertò a questo problema era legata ad una particolare categoria di farmaci che vengono usati in gastroenterologia, e dove c'era chiaramente una pubblicità occulta di uno di questi farmaci, poi non tanto occulta, nelle pagine di Wikipedia. Ecco, e infatti succede spesso in Wikipedia che degli utenti vengono bannati, cioè esclusi da Wikipedia, perché hanno fatto delle segnalazioni promozionali e perché hanno aggiunto dei link che non sono coerenti, diciamo, con la missione e lo scopo di Wikipedia. Per cui c'è una sorta di sistema immunitario, diciamo, da questo punto di vista. La comunità vigila. Io non so che c'è un'etichetta di Wikipedia, certo. Cioè una serie di regole che vengono usate, e queste aiutano moltissimo. Ma non sono sufficienti. Sono una esenzione all'uso della materia cerebrale, che è quello che dobbiamo fare sempre. Quindi occhio, insomma, banalmente teniamo occhi aperti, occhio anche perché Google, se ti porta direttamente lì, rischia di essere una nuova televisione, un nuovo pensiero unico, l'ho detta grossa. Non credo. Ce lo diciamo tra di noi, però il tema è questo. Noi continueremo a seguire i temi di Wikipedia, i temi della rete. Scriveteci su Facebook, scriveteci al Twitter di Nova Lab 24, dove troverete tutti i link e le segnalazioni della puntata. Poi abbiamo anche la mail novalab24@radio24.it. Stanno arrivando un po' di risposte sul tema dell'equo compenso, vedremo di seguire anche quello. Insomma, noi vorremmo utilizzare la rete per continuare a monitorare quello che sta accadendo e utilizzare la radio anche per convergere un po' i due media, come si suol dire. Il tempo è scaduto, domani continueremo a parlare di bufale in una chiave più tecnologica, per cui il tema resta questo ma con una chiave diversa. Io saluto Luca Dello Iacovo. Arrivederci a tutti. A domani.